Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Cede in questo momento l'1,1% il titolo Mediaset dopo l'annuncio, la conferma, ne parleremo più avanti, della cessione, dell'ingresso per meglio dire, di Telefonica, quindi la compagnia di telefonia spagnola, che è anche la compagnia che di fatto non, c'è chi dice non controlla, l'azionista di maggioranza relativa nella nostra Telecom Italia. Dicevo, Mediaset ha annunciato l'ingresso di Telefonica in Premium, che è la pay TV del gruppo Mediaset, con l'acquisto per 100 milioni di euro di una partecipazione dell'11,1%. Definita quindi la seconda operazione in pochi giorni sull'asse Mediaset Telefonica, perché la settimana scorsa era stata formalizzata la cessione del 22% della pay TV spagnola Digital Plus, in mano sempre a Mediaset, proprio Telefonica. Operazione questa che vale 365 milioni, a cui appunto si aggiungono i 100 milioni di euro per la cessione dell'11,1% della partecipazione in Premium. Allora, poi ne parleremo, perché Mediaset ha già chiarito che questi soldi non verranno utilizzati per esempio per i diritti TV, ma per aumentare la liquidità e la capitalizzazione del gruppo, e che potrebbero esserci anche altri ingressi. Il titolo, dicevo, perde l'1%, ma vorrei ricordare che da mesi che invece cresce, si muove sull'ipotesi di cessione del digitale spagnolo e eventuale anche ingresso in Premium. Uno dei temi che affronteremo è appunto questo. Poi ci occuperemo della vicenda che insomma riguarda da un lato gli Stati Uniti, ma dall'altro anche l'Europa. Perché lo dico? Perché in Europa, ricorderete, la settimana scorsa la Germania ha votato l'aumento del salario minimo. In America c'è uno scontro molto duro proprio sull'idea di portare il salario minimo a $10 nei grandi gruppi privati, che ha implicato anche la protesta dei lavoratori di McDonald's. Lì è il caso più emblematico. Secondo infatti l'Economy Policy Institute, i lavoratori a salario minimo dei fast food americani più rinomati hanno guadagnato nel 2013 $15,000 contro i quasi $11 milioni portati a casa dagli amministratori delegati di quelle catene di ristoranti, il che vuol dire che i numeri uno hanno guadagnato 720 volte più dei loro dipendenti di base. Faccio notare che nel 1970, se si prendevano le prime 100 corporate americane, il guadagno dei numeri uno era di 240 volte superiore al stipendio base, che è già tanto. Qui siamo arrivati a 721 volte. Ora, non mi sembra che i manager di adesso valgano tre volte i manager degli anni 70. Allora, il tema c'è tutto, tra l'altro lo stesso Barack Obama e quindi la Casa Bianca si è mossa, sta facendo pressing sul settore privato, sui grandi gruppi privati per portare l'aumento del salario a $10. Per quello che riguarda invece i casi di casa nostra, racconteremo anche, visto che c'è stato nel fine settimana l'apertura dei musei, un debutto molto importante, 12.000 presenze a Pompei, 28.000 per il Colosseo, 2.000 all'Archeologico di Napoli, la prima domenica gratis dei musei, più 66%. In realtà è uscito nel frattempo anche un rapporto dell'Associazione Mondiale dell'Attrazione a Tema, si chiama Themed Entertainment Association, che ha elaborato una classifica dei 20 musei più visitati al mondo e ha anche guardato quello che è il volume di affari che riescono a sviluppare. Beh, insomma, tra i primi siti spiccano 4 musei a Washington, molti musei a Londra, il primo è il Louvre. Un italiano, si fa per dire, è solo rappresentato dai Musei Vaticani, e quindi l'italiano da un punto di vista formale ha poco, perché è nello Stato del Vaticano. Ma soprattutto impressionano le differenze tra quanto riescono a far rendere i musei gli altri paesi e quanto riusciamo noi. Ora, si dice sempre che l'arte, l'archeologia, il nostro patrimonio artistico, è il nostro oro, è il nostro petrolio. Ok, bisogna saperlo estrarre. e quindi farlo fruttare. Il Louvre da solo incassa tra biglietti, merchandising, attività promozionali e quant'altro come tutti i musei statali italiani messi assieme, incluendo quindi anche Colosseo, che un museo non è, e gli Uffizi e via, e anche Pompei, quindi parliamo di musei in senso allargato. E allora ogni tanto anche mettersi coi piedi per terra e non solo pascersi nel fatto che noi siamo il paese che ha più siti del patrimonio UNESCO, va bene, siamo anche il paese che riesce a guadagnare meno soldi dal suo oro o petrolio sotterraneo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Avremo anche qualche notizia a proposito di musei, c'è molta polemica sui bronzi di Riace che stanno in Calabria ma nessuno li va a vedere perché non c'è modo di vederli. Ecco, della Calabria parleremo oggi, dedichiamo il nostro approfondimento sugli sprechi della pubblica amministrazione alla Calabria. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Siamo sulla borsa che complessivamente perde l'1% a Milano, Parigi peggio, meno 1,30, Francoforte in linea, meno 0,90, Londra meno 0,60, l'America meno 0,40%. Cosa va male da noi? Anzi, facciamo prima dire cosa va bene. G-Tech più 1,80, Autogrill più 1, Saipem più 0,5, Azimut più 0,30 come Tenaris. Invece Iux perde il 3%, Popolare Emilia Romagna meno 2,80, Mediobanca meno 2,60 come il Monte dei Paschi, A2A meno 2,20 come Finmeccanica, il 2% lo perde Ferragamo, l'1,90 Moncler di Steam Microelectronics, l'1,80 Unipolsai e anche il Banco Popolare e la Pop Milano, l'1,60 il calo di Mediolanum e di UBI Bank. E quindi, al di là delle tensioni in America sui salari, oggi di nuovo ci sono dichiarazioni. Questa sera c'è il vertice dell'Eurogruppo, il primo in cui, diciamo, a fare gli onori di casa sarà il nostro ministro dell'economia Giancarlo Padoan, è il vertice infatti dei ministri economico-finanziari, domani Ecofin. Intanto nel patto di stabilità e di crescita c'è già un elemento di flessibilità che non è stato sviluppato finora. La presidenza italiana, secondo fonti della presidenza europea, vuole usare il semestre per chiarire come e cosa si può fare nel contesto del patto e vedere un accordo il prima possibile su come applicarlo appieno. Il fatto che il patto può aiutare a facilitare le riforme dei paesi deve essere tenuto meglio in considerazione. È arrivato poi anche il presidente dell'Eurogruppo, Aaron Dijsselbloem, che ha detto sì, c'è margine di manovra ma solo sulla base di riforme attuate e non soltanto promesse, che hanno un vero impatto positivo sul bilancio. E va bene, mi sembra che siamo ancora alle schermaglie. E il ministro Padoana oggi ha dichiarato praticamente in un tweet che ricorda come il programma della presidenza italiana sarà il tema di lavoro domani all'Ecofin e anche questa sera all'Eurogruppo, ha detto finalmente parte il dibattito su come spingere la crescita. E un secondo dopo è arrivato il mitico Schäuble, dacci oggi il nostro Schäuble quotidiano, che è il ministro delle finanze tedesco, il falco dei falchi. La crescita non diventi pretesto per non fare quello che serve, vogliamo fare di più per avere più investimenti e crescita, ma non deve essere una scappatoia o un pretesto per non fare quello che ci serve. Lo dice Schäuble nel giorno in cui in Germania, a sorpresa, la produzione industriale è calata dell'1,8% ed è il terzo mese consecutivo di ribassi, perché va fatto anche in negativo il mese di marzo, e aprile va fatto meno 0,3%. Volete sapere com'è il nostro spread? È a 153 punti, il rendimento del BTP a 10 anni al 2,87%. Lordo, ancora la Banca d'Italia oggi nel rapporto sulle regioni italiane, e quindi ci avviciniamo alle regioni italiane, dice sostanzialmente ci sono segnali di ripresa ma non ancora nel nostro mezzogiorno. E infatti il rapporto sulle varie aree del paese della Banca d'Italia mostra come nel 2013 il PIL del nord-ovest abbia recuperato, o meglio dire ha fatto rispetto al ha fatto meno 0,6 rispetto a meno 2,3. Il PIL del nord-est ha fatto meno 1,5, veniva da un meno 2,5. Il PIL del centro ha fatto meno 1,8. Il PIL del mezzogiorno ha avuto la flessione peggiore, è peggiorato rispetto anche al 2012, meno 4% contro un 3% nel 2012. I motivi? Beh, tanti motivi, il ruolo della criminalità organizzata, delle amministrazioni locali che, non, nessuno vuole fare di tutta un'erba un fascio, ma oggettivamente hanno un minor senso della, o danno la sensazione di avere un minor senso della cosa pubblica, e poi i costi delle inefficienze del sud e del peso della criminalità, perché è chiaro che le imprese che operano sul sud hanno dei tassi bancari quando chiedono un prestito superiore a quelli del nord, all'8% contro il 6% del centro-nord. Tutto il fronte assicurativo, l'abbiamo raccontato, assicurare un credito al sud è un'impresa epica, soprattutto se il credito lo vanti nei confronti della pubblica amministrazione, e quindi e poi anche una minore propensione che ha sempre avuto il nostro mezzogiorno alle esportazioni, e quindi e nel momento in cui l'unica cosa che tira sono le esportazioni è chiaro che tu rallenti più degli altri. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Restiamo in tema di sud, perché come dicevo oggi arrivano due notizie interessanti dalla la, possiamo chiamare Calabria Felix, perché alcune persone, nel caso specifico gli esponenti politici regionali della Calabria, non si sono accorti che dal 2007 in poi è cambiato il mondo, perlomeno dal punto di vista occidentale, e continuano a vivere bellamente come se tutti i segnali che stanno arrivando riguardassero solo gli altri e mai loro. Perché dico questo? Perché, insomma, partiamo dal, visto che si parla molto di riforme in Senato, la settimana della riforma del Senato. Beh, allora, c'è una riforma che prevede in Italia che si debba scendere per le regioni che hanno meno di 2 milioni di abitanti da 50 a 30 consiglieri. È un minimo sindacale, non so come dirti, avere 50 consiglieri quando hai meno di 2 milioni di abitanti, come ne hanno regioni che hanno 8-9 milioni di abitanti, mi sembra il minimo. Allora, ma la Calabria proprio su questo non ne vuol sapere. Il Consiglio regionale della Calabria, ad oltre 100 giorni dall'annuncio delle dimissioni del governatore Scopelliti, che non si è dimesso per altri motivi se non perché sto condannato a 6 anni di reclusione, continua a galleggiare e non si scioglie. È una formula quasi chimica, galleggia senza avere corrosione. Perché? Da marzo la regione stava lavorando per la riforma dello statuto, della legge elettorale, per portare sti bravissimi consiglieri da 50 a 30. Una prima riforma prevedeva 40 consiglieri, ma come? La legge prevede 30, giustamente la Corte Costituzionale gliel'ha bocciata. Se è 30 è 30, non è 31, non è 33, è 30. Cioè, va capita, so che è difficile, è 30 però. E niente, la prima proposta fu a 40. Allora poi il Consiglio regionale calabrese, preso atto delle dimissioni di Scopelliti, ha approvato una nuova legge elettorale con 30 consiglieri. Oh, dici, finalmente la vicenda è chiusa, il 3 giugno si è chiusa. No, perché la maggioranza ci ha messo dentro lo sbarramento al 15% per i partiti che non si presentano in coalizione. E l'introduzione del consigliere regionale supplente che va a ricoprire il posto del consigliere chiamato in giunta come assessore. E quindi il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta ha annunciato che la legge calabra sarà impugnata dal governo, e comunque l'impugnazione intanto allunga la vita agli oltranzisti della poltrona, perché ci vorrà altro tempo, i consiglieri sono tutti saldamente al loro posto e la giunta continua ad affidare incarichi e consulenze, tutti incassano la diaria e tutti stanno bene, bene, bene. Ne parliamo in autunno. Questo in una regione che al di là del bilancio in rosso è, secondo l'ispettore Gaetano Mosella, che è l'ispettore che la Ragioneria Generale dello Stato ha inviato in Calabria per controllare i conti della regione. Allora, Gaetano Mosella, che da quello che capiamo è persona seria, ha fatto una relazione di 247 pagine perché un manuale, alcuni mi dicono perché non scrivi un libro su questi casi, ma ci sono già. È un campionario di illeciti. No, io non ce la faccio però con sta base. Datemi una maiella perché è proprio la musica fusion quando devo raccontare. Eccola qua. Dicevo, è un campionario di illeciti e di irregolarità messe in atto negli ultimi anni della regione, quindi durante le presidenze di Agazio Loriero e Giuseppe Scopelliti, appunto condannato a 6 anni di reclusione. Ora, le parole, le keywords, direbbero quelli che hanno studiato, più presenti in questa relazione si chiamano illegittimo e illegittimamente. Sono le parole che più ricorrono. Vogliamo fare alcuni casi? Ecco perché mi serviva un po' di tango. Allora, via. Illegittimamente sono state corrisposte ai dipendenti della giunta regionale somme derivanti dai fondi europei e poi ci facciamo anche bacchettare dall'Europa per 1.600.000 euro. Illegittimi sono gli incarichi conferiti per alta professionalità a una decina di dipendenti che non ne avevano i requisiti, un altro 1.100.000 euro. Altrettanto illegittime sono definite 1.969 promozioni solo in un anno. Ma come cavolo si fa a fare in una regione, ma in qualunque gruppo, ma neanche alla Microsoft, ma alla IBM, 1.970 promozioni in un anno nel 2005. Illegittima pure, ma è una pazzesca, vuol dire una media di 6 promozioni al giorno. Devi starci dietro, più di 6. Illegittima, compresi i giorni feriali, festivi, per cui devi lavorare anche sabato e domenica. Illegittima pure la stabilizzazione di 322 lavoratori socialmente utili e 95 contrattisti a tempo determinato. Illegittimi gli aumenti di stipendio retroattivi concessi a 85 impiegati dei gruppi politici. Illegittimi quasi 800.000 euro liquidati a titolo di produttività collettiva a favore del personale del Corecom, che è l'autority regionale per le comunicazioni. Ma perché c'è l'autority regionale per le comunicazioni in Calabria? Perché cioè, cosa deve vigilare in Calabria l'autority regionale per le comunicazioni, Corecom, che si dà comunque 800.000 euro di produttività collettiva? Ma è il secondo piano del Comintern, ma manco Stalin in America, la produttività collettiva. Boh. 1.500.000 di euro pagato con analoghe motivazioni, produttività collettiva. A quando i Colcoz? Comunque, a tutti i componenti delle segreterie politiche, illegittimi, sono sempre definiti illegittimi dall'ispettore della Ragioneria Generale dello Stato, illegittimi 3.700.000 euro corrisposti ai dirigenti della regione, illegittimi 10 milioni in più spesi per la sola retribuzione di posizione dei medesimi dirigenti, 10 milioni. La retribuzione di posizione, ma che è? Cioè, io posso capirlo nel mondo del porno, la retribuzione di posizione, ma che cos'è la retribuzione di posizione in uno che fa il consigliere o il dirigente regionale? Vabbè. Illegittime le assunzioni di 97 persone nel 2008, 127 nel 2009, 395 nel 2010, 44 nel 2011. Tra l'altro l'ente, secondo l'ispettore della Ragioneria dello Stato, non ha mai provveduto alla verifica dell'obbligo di contenimento della spesa come previsto dalla legge finanziaria del 2007. Chiudo. Illegittima anche l'indennità riconosciuta al direttore generale dell'Avvocatura regionale, il direttore generale dell'Avvocatura regionale, per il semplice fatto che quella posizione nemmeno è contemplata dai regolamenti. Quindi, essendo una posizione non contemplata dai regolamenti, giustamente si è beccata l'indennità e il ragioniere dice: ma che indennità di che? Che non esiste il direttore generale dell'avvocatura regionale nei regolamenti. E chiudiamo in bellezza parlando di noi illegittimi perfino i decreti di nomina di una marea di giornalisti assunti negli uffici stampa. Noto che insomma la regione Calabria ha molto da comunicare e quindi ha bisogno, cioè c'è la CNN, Al Jazeera e l'ufficio stampa della regione Calabria, così funziona il mondo. E infatti vediamo che di Calabria poi ci occupiamo per altre madonne intese come quelle che si inchinano. Allora, chiudo con la Calabria. Immagino che prima o poi la società che produce il Malox mi darà qualche royalties. Andiamo con meteo, pubblicità e poi parliamo di come non riusciamo a sfruttare il famoso oro, petrolio italiano. A proposito di Calabria, i bronzi di Riace praticamente sono tenuti molto segreti, cioè chi li ha visti va in un programma che si chiama appunto Chi li ha visto, e infatti noi non riusciamo a guadagnare nulla o poco dai nostri musei, dai nostri beni archeologici, dai nostri siti archeologici. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Già 7:35 minuti, grazie al nostro Dario Ricci per l'aggiornamento, ahimè, della morte del mitico di Stefano. Vedo molti messaggi sul tema, adesso vorrei arrivare invece alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e archeologico in base alla classifica mondiale che è uscita sui 20 musei più visitati al mondo. Devo dire che ogni tanto arrivano dei commenti che dicono, ma insomma... ma lei non è stufo di parlare, basta, ma noi che cos'altro dobbiamo fare? Con questo bla bla bla le cose miglioreranno. Sì, spero di sì, spero che a forza di battere sul chiodo questa cosa, l'alternativa sarebbe non parlarne e lasciarli fare quello che hanno fatto fino a qualche anno fa, che magari in alcuni casi continuano a fare, perché il 2005 era l'altro ieri, no, ma il paese non era in crisi, quindi tutti quanti chiudevano un occhio. L'importante erano altre polemiche. Uno, due, c'è chi dice, ma attenzione, sono cose ovvie, lei si sorprende di banalità. No, guardi, secondo me una persona e un paese iniziano a morire, moralmente parlando si intende, quando danno per scontata con questo cinismo che alcune volte gli stranieri ci riconoscono, ma dai, tutti fanno così, tutto il mondo è così, ma che tu alla baracca. Ecco, quando inizi a ragionare così, moralmente sei un uomo morto e come paese sei una nazione morta. Indignarsi serve. Allora, 12.000 presenze a Pompei, 28.000 al Colosseo, 2.000 all'archeologico di Napoli. Questo è il primo effetto da debutto boom per la prima domenica di musei gratuiti. Il ministro Franceschini l'aveva annunciato proprio nel corso degli Stati Generali della Cultura organizzato da Sole 24 Ore due settimane fa a Roma. Aveva annunciato che avrebbe ridotto drasticamente tutto un insieme di ticket gratuiti, però introducendo le domeniche gratis ai musei. Boom anche alla Galleria Palatina, più 200%, alle Cappelle Medicee più 190%, al Giardino di Boboli a Firenze più 150%. In generale un numero di visitatori che è aumentato del 66%. Ricordo che la domenica gratis è stata istituita con un decreto ministeriale assieme con il venerdì ad orario prolungato e le notti bianche, che dal 2014 si faranno almeno due volte all'anno. La domenica a porta aperta riguarda tutti i 420 musei e luoghi della cultura statale. Però, così come siamo contenti di questa iniziativa, vorremmo anche capire perché il nostro petrolio oro non riesce a essere estratto e sfruttato. Allora, il Louvre da solo, con 9,7 milioni di visitatori, incassa 100 milioni di euro ogni anno tra biglietti, merchandising, servizi ausiliari, perché poi ci sono tanti anche servizi, c'è il catering, la ristorazione museale, ci sono le sale affittate, ci sono i corsi di formazione e donazioni, perché riceve anche molte donazioni da privati. I 100 milioni di euro che il Louvre incassa sono quasi l'equivalente di tutti i musei statali italiani messi assieme. Nei primi 8 mesi dell'anno, nei primi mesi di quest'anno, gli ingressi sono stati simili agli incassi ai primi mesi dell'anno scorso. Il sito più visitato è il Colosseo, con 5 milioni e 200 mila ingressi, 37 milioni e mezzo di euro di incasso. Poi però andiamo a vedere come è gestito il Colosseo. Seguono Pompei con 2 milioni e 300 mila visitatori, 19 milioni di euro di incasso, gli Uffizi con 1 milione e 800 mila visitatori e 8 milioni e 700 mila euro di incasso. Mi chiedete perché del Colosseo? Perché voglio dire, chiunque porti un bambino, uno straniero al Colosseo si rende conto che non c'è una didascalia, una spiegazione, un'infografica decente, degna di questo nome nel 2014. C'è una fila interminabile, ma dico, ma costa molto rendere un po' più comprensibile a chi non ha fatto studi classici cos'era il Colosseo, un percorso didattico, un percorso anche per i bambini. Li fanno anche nei musei di provincia all'estero, e invece al Colosseo no, t'arrangi, guarda le rovine e capisce e impara da solo. Allora, la classifica pubblicata dalla TEA, Team Entertainment Association, con l'ICOM, che è la società di consulenza internazionale, ha messo in classifica i 20 musei più visitati al mondo. Ne parliamo con il numero uno di Interbrand, che è la società di consulenza che è specializzata nella valutazione economica dei marchi e fa ogni anno una classifica sui marchi che hanno maggior valore. E quindi Manfredi Ricca, buonasera. Buonasera. La classifica è la seguente: al primo posto il Louvre, al mondo, 9 milioni e 700 mila visitatori, poi segue il National Museum of Natural History a Washington, al terzo posto sempre a Washington il National Air and Space Museum, al quarto il MoMA di New York, al quinto il British Museum di Londra, al sesto la Tate Modern di Londra, al settimo la National Gallery di Londra e finalmente troviamo il primo italiano, si fa per dire, perché in realtà sono i Musei Vaticani a Roma e comunque includiamoli negli italiani, 5 milioni di visitatori. Poi non c'è più nulla fino al 20° posto, nel senso che i nostri musei vengono superati, lo dico, ma non solo dal Centre Pompidou di Parigi o dal Museo d'Orsay, ma anche dal Museo di Scienze di Londra o dal Geological Museum di Pechino, ma anche in alcuni casi a Taiwan il National Palace Museum, per cui insomma è una classifica che ci lascia un po' di amaro in bocca. Che cosa non riusciamo a sfruttare, Manfredi Ricca? Ma credo diverse cose. Innanzitutto quello che colpisce di questi dati è anche la loro relativizzazione rispetto a quello che i nostri musei offrono, quindi al contenuto e al potenziale interesse che questo contenuto dovrebbe rivestire per il mondo e che invece le evidenze mostrano che hanno cessato di attrarre così tanto. Sicuramente esiste un aspetto di branding nel fatto di non aver saputo reinventare i musei oggi non tanto come luoghi dove si visitano delle cose, ma come delle potenziali piattaforme di contenuti che possono eventualmente essere addirittura svincolate dal luogo stesso. Cioè non solo le opere o le statue, diciamo. No, i nostri musei, ma tutti i musei, devono essere visti oggi come dei contenuti che devono poter essere fruiti nel modo in cui oggi tutto il mondo sta fruendo le informazioni e i contenuti, vale a dire dal remoto, vale a dire non necessariamente in un momento, in una giornata, ma attraverso veramente quelli che sono canali diversi. I nostri musei sono ancora dei luoghi e purtroppo tutte quelle realtà che vediamo ai vertici di questa classifica sono dei luoghi, sì, ma soprattutto sono delle piattaforme di contenuto che sanno veramente pensare al proprio pubblico non come dei visitatori ma come dei clienti, e questo credo che sia il grosso salto che le nostre istituzioni culturali devono fare. Quindi sia la parte virtuale, diciamo così, ma anche un luogo, io devo dire, visitandone alcuni di questi in giro per il mondo, sono luoghi anche didattici, sono luoghi anche di incontro, ci sono, adesso qualcosa si muove anche in Italia, ci sono delle aree, chiamiamole così, di ricreazione, dalla caffetteria al ristoro, fatte molto bene, sono luoghi anche di studio e ricerca, per cui sì, diventa non solo il museo in cui entri, attraversi le sale, guardi le opere, ma diventa un luogo di aggregazione vero e proprio, se ho ben capito il suo ragionamento. Assolutamente, credo che una riflessione sia abbastanza esemplificativa di tutto questo. Di molti dei musei che sono ai vertici di questa classifica, o rispetto a questi, la domanda che si fa è: ci sei stato quest'anno? Purtroppo dei nostri musei in molti casi dici ci sei stato, cioè sono dei musei che tendono a essere una visita che fai una volta nella vita, perché sai che dopo 5 anni più o meno i contenuti resteranno quelli e fin qui non c'è nulla di male, anzi, ma soprattutto vengono riproposti nello stesso modo, non vi si alternano eventi, non vi si alternano appunto momenti di aggregazione, e questo ovviamente è, se lo vediamo, una perdita di incassi, perché nel momento in cui un museo è una volta nella vita sta rinunciando a poter diventare parte di una comunità e soprattutto a potersi fare seguire da una clientela ovunque essa sia in diversi momenti, e questo è qualcosa che penalizza, perché è il modo in cui un museo è stato concepito probabilmente nei secoli scorsi. Oggi i musei devono ragionare su linee che sono completamente diverse, soprattutto pensare come dicevo prima, di non avere dei visitatori, ma di avere dei clienti con i quali è possibile avere un rapporto continuativo su diverse piattaforme, con diversi canali di comunicazione, e che arrivano al museo per fare cose diverse, per fare cose che attengono ovviamente alla cultura e che devono ricadere nella missione di quel museo, ma che evidentemente possono abbracciare attività diverse e anche un'interazione maggiore. Al di là di questo, poi credo che in molti casi di questi musei si collocano in un tessuto urbano che facilita la... Sì, ma questo forse è il problema minore per noi, però faccio notare nel ringraziarla che quello che il Louvre incassa dai servizi ausiliari, 15 milioni di euro, è il doppio di quello che incassano gli Uffizi di biglietti, 8 milioni e 7. Questo vuol dire che noi stiamo rinunciando a dei soldi che si chiamano merchandising, che è quindi tutto ciò che viene siglato, ma insomma, uno va al Museo di Storia Naturale di Londra, c'è tutta una parte che addirittura nel merchandising riguarda i bambini, dall'orso in peluche a quant'altro, non è solo il merchandising alto, cioè abbraccia tutte le categorie di possibili acquirenti. E poi, come si diceva, noi continuiamo a concepirli come un luogo in cui vai, guardi e esci, e non come un luogo di aggregazione. Certo, Manfredica, qua festeggiamo che il Colosseo aveva raggiunto l'intesa per aprire venerdì fino alle 22 e ricordiamo le centinaia di turisti fuori per l'assemblea sindacale da Pompei. Cioè, qui siamo ancora sul tema degli orari. Se arrivare poi al museo, che non è più solo un luogo freddo ma un luogo aggregante, ripeto, nei paesi anglosassoni ci si incontra al museo anche per parlare di altro, o lo si utilizza come luogo dove non fare solo una visita culturale ma fermarsi a fare anche altre cose. E poi c'è tutta la parte poi delle librerie, dei prodotti che vengono venduti. Grazie al Managing Director di Interbrand, Manfredica. Grazie molto, buonasera. Adesso andiamo verso il traffico. Si vedo molti messaggi anche su questo. Che cosa volete che facciamo? Noi raccontiamo, ospitiamo persone che danno il loro punto di vista e cercano anche di dare delle soluzioni, denunciamo e basta. Non è che cosa dobbiamo fare? La rivoluzione via microfono. Non è questo il punto. Poi non credo alle rivoluzioni così. Penso a un cambio della coscienza civica del paese. Botta su botta, colpo su colpo, lasciare in minoranza questi dinosauri non produttivi e antistorici. Speriamo di farci. Minuti, adesso andiamo alla borsa. Torneremo sul tema comunque della valorizzazione del nostro patrimonio. Rifare sta Italia è lunga. Comunque, vicenda Mediaset domina oggi in borsa, ma domina soprattutto tra le notizie, perché dopo la cessione del 22% della PTV spagnola Digital Plus a Telefonica, oggi Mediaset ha ceduto un altro 11,1%, ma questa volta di premium, la pay TV del gruppo Mediaset, sempre a Telefonica. E sono altri 100 milioni che vanno a sommarsi ai 365 della cessione appunto della pay TV spagnola. Ne parleremo tra un attimo. Invece il commento di borsa molto rapido, anche perché oggi non vedo enormi notizie in borsa. Paolo Paronetto, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. I dati sulla produzione industriale tedesca, li raccontavo in apertura, per il terzo mese consecutivo, a sorpresa, in calo, e quindi hanno creato molta incertezza. Parigi perde l'1,40, Francoforte l'1%, e da noi? Da noi più o meno il trend è stato lo stesso, proprio i dati sulla produzione sono quelli che hanno pesato, oltre a un'apertura negativa di Wall Street che venerdì era chiusa, e quindi il FTSE MIB ha perso l'1,33%, il FTSE Euro Share l'1,29%, e i titoli che hanno perso di più sono quelli dei settori più ciclici, a partire dalle banche. E come dicevi tu, a parte questo, non è una seduta con particolari storie che spicchino all'interno tra le altre. Ancora, infatti, le banche oggi sono abbastanza deboli complessivamente, le cito in rapida sequenza: Popolare Emilia Romagna meno 3,13, Monte dei Paschi meno 3,13 anch'essa, e poi Mediobanca meno 2,80, a Mediolanum meno 2,30, Banco Popolare meno 2,20, Ubibanca meno 2, Pop Milano meno 1,90 come Intesa San Paolo. Il peggior titolo Iux meno 3,31%, miglior titolo G-Tech più 1,70%, Iux e G-Tech. Sì, per quanto riguarda Iux, il titolo veniva da due sedute positive dopo un periodo un po' più incerto e quindi la giornata negativa ha spinto gli investitori subito a passare ai realizzi dopo appunto i guadagni delle ultime due giornate. Il titolo ha perso il 3,31%. Per quanto riguarda EGTech, il titolo è un trend positivo da un po' di tempo, nonostante qualche realizzo nell'ultima giornata e dopo l'annuncio del piano di buyback. Inoltre si attende l'esito di alcune gare che potrebbero migliorare il portafoglio della società, e quindi sono giornate in cui gli investitori entrano sul titolo, anche perché secondo gli analisti rimane abbastanza sottovalutato rispetto ai competitor. Il titolo ha quindi guadagnato l'1,73%. Allora, ancora per quello che riguarda altri titoli, Saipem più 0,60, Autogrill più 0,40%. Su altri casi oggi abbiamo visto in calo anche Eni e Enel, meno 1,33 Eni, meno 1,50% Enel. Qui cosa c'è? Un po' di dubbio che si sta aprendo sulle strategie del Tesoro dopo il non brillante collocamento di Fincantieri? Alcune ipotesi in campo, la principale è proprio quella legata ai dubbi sulle privatizzazioni, soprattutto se la quotazione di Poste dovesse slittare, ci sono indiscrezioni che parlano di un anticipo delle vendite di un 5% di Eni ed Enel già all'autunno di quest'anno, e quindi i titoli sono stati sotto i riflettori per questo. Inoltre ci sono altre indiscrezioni che parlano di Eni ed Enel come di possibili aggregatori di piccole utilities e non quotate da portare poi in borsa. Anche questo sarebbe un progetto all'attenzione del governo, tutti i fattori che hanno contribuito a tenere i titoli oggi sotto l'attenzione degli investitori. Adesso arriviamo anche a Mediaset, ancora un paio di titoli prima di concludere. Il settore bancario l'abbiamo analizzato, vorrei arrivare al A2A meno 2,40%, ma anche ai migliori e peggiori. Allora, Premuda più 9,40%, Bastoggi più 6%, El Venture Group più 9,25%, Italia Independent più 6,20%, questi migliori in assoluto. Fronte opposto, PLT Energia meno 8%, Trevi Finanziaria meno 6%, Fidia meno 4,60%, Zucchi meno 4,50%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Grazie a voi. Mediaset, 6.000 dipendenti, ha un fatturato nel 2013 di 3 miliardi e 400 milioni di euro e ha chiuso comunque il 2013 con 9 milioni di utili. Ha compiuto un doppio colpo in questi giorni, nel senso che la settimana scorsa ha formalizzato la cessione del 22% della PTV spagnola Digital Plus a Telefonica, e adesso invece anche l'11,11% di Premium venduto sempre a Telefonica, 100 milioni più altri 365 milioni. Marco Mele del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora Marco, dopo il GR24 abbiamo anche un'intervista che ha realizzato la nostra Livia Zancaner con Paolo Calvani, direttore appunto comunicazione del gruppo Mediaset. Però il doppio ingresso di Telefonica era meno scontata quest'ultima operazione rispetto a quella sul digitale spagnolo di cui parliamo da mesi? Sì, era diciamo meno scontata. In realtà è come dice anche lo stesso Silvio Berlusconi, è un passo, secondo me, di un cambiamento ormai di fase, un cambiamento di fase, ma dell'assetto della comunicazione in Europa. È un passo per cui le vecchie barriere non ci sono più, cioè Telefonica è un operatore che è partito dalla voce, dalla telefonia, adesso entra e acquisisce una pay TV, Mediaset, che è una TV commerciale, deve internazionalizzarsi, cioè non ci sarà più la Mediaset tutta italiana. A premium sono previsti altri soci, forse Al Jazeera, forse Vivendi, Canal Plus, forse altri addirittura. Cioè, per reggere la concorrenza, mentre Sky sta lavorando per una Sky europea, cioè non ci sono più le società nazionali. In questo senso la mossa deve essere più che attesa o inattesa, è esplicativa. Cioè, un gruppo entra, cioè Telefonica prende la PTV in Spagna soprattutto per evitare che Al Jazeera entri sul suo mercato nazionale, e perché pensa al Sud America, dalla Spagna al Sud America, il mercato della Pay nell'America Latina. In Italia prende una quota di minoranza perché non è un interesse strategico, non è un interesse strategico per il mercato della televisione italiana, però sa che la Pay con altri soci dentro può rilanciarsi, anche se finora Mediaset Premium è stato finora diciamo in perdita, sì. Ma in realtà è stato investito molto e non ricavato altrettanto. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, diciamo con Marco Mele di questa doppia operazione. La settimana scorsa Mediaset cede a Telefonica il 22% della PayTV spagnola Digital Plus, 365 milioni in tutto, di cui 40 che arriveranno che dipenderanno da alcune clausole contrattuali, e l'ingresso invece annunciato oggi di Telefonica in Premium, e quindi la PayTV italiana del gruppo Mediaset, 100 milioni di euro, 11,11%. Marco Mele, ascolta con noi l'intervista che Livia Zancaner ha realizzato con Paolo Calvani, direttore di comunicazione del gruppo Mediaset. Gli ha chiesto se l'ingresso Telefonica è in realtà la prima apertura a altri partner internazionali. Telefonica, che è un grande gruppo mondiale di TLC, ha esaminato Mediaset Premium, che è una pay TV italiana che, come tutti sanno, è la seconda pay TV rispetto al grande dominatore del settore che è Sky Italia. Hanno esaminato la società e hanno trovato nella società tutta una serie di aspetti interessanti, tanto da giustificare un investimento di 100 milioni di euro nella società che si costituirà, perché in questo momento Mediaset Premium è una divisione di Mediaset, invece ora verrà scorporata, si creerà una nuova società e una volta che il capitale sarà costituito, Telefonica ne acquisirà l'11,11%. Non è che Telefonica è bloccata all'11,11, diciamo che il primo partner che ha scommesso su Mediaset Premium è stato Telefonica, lo ha fatto con una dimensione azionaria piuttosto circoscritta, non è entrata al 40%, allora questo fa dire c'è un'alleanza a due, entrando con l'11,11 è chiaro che c'è ancora spazio per l'ingresso di eventuali nuovi partner, come la stampa ha scritto, anche le radio hanno raccontato. Da tempo si parla dell'interesse di grandi player internazionali per l'ingresso in Mediaset Premium, che evidentemente è una pay TV che ha tanti spunti interessanti per gli investitori operativi, che sono player di contenuti e di televisione, quindi c'è spazio anche per altri, per fare una sintesi. Come abbiamo più volte detto, c'è un interesse, manifestazioni concrete, si è aperto una data room, alcuni player hanno guardato i conti, sono quelli onestamente di cui la stampa ha avuto indiscrezioni, altri se ne sono aggiunti nelle ultime ore, però al momento onestamente non c'è nessun accordo scritto, nessun contratto firmato. È chiaro che nelle prossime settimane la questione arriverà a cottura, se mi passa questo termine, perché Premium in questo momento è chiarissimo che cos'è. È una pay TV che oltre tutti i contenuti di film, serie, documentari, programmi per bambini, sul calcio, che forse è uno dei contenuti più pregiati, ha chiarito bene i diritti che detiene, e cioè le maggiori squadre di Serie A per i prossimi 4 anni e la Champions League in esclusiva per il triennio 2015-2018. Quindi chiunque vuole entrare in Premium sa perfettamente che cosa trova dentro Premium. Gli investimenti sui diritti di calcio per una pay TV vengono ovviamente ripagati dai ricavi che ne conseguono, cioè dagli abbonamenti che arrivano, visto che sono diritti per i prossimi anni, per quegli anni entrerà cassa per finanziare gli investimenti sostenuti. È ovvio che in questo momento è entrata della liquidità che la società userà come meglio crede, sia per cogliere tutte le opportunità, sia anche dal punto di vista finanziario per ragionare su un equilibrio dell'indebitamento. Insomma, ci sono varie possibilità. L'importante, facendo una battuta, è avere ingresso liquidità, poi sul suo utilizzo è sempre piacevole occuparsene, ecco. Se, come abbiamo sempre fatto, se abbiamo da poter restituire agli azionisti e ai piccoli risparmiatori, l'abbiamo sempre fatto e per noi è un punto d'orgoglio ripagare in qualche modo chi ha creduto in noi. Lo decideremo più avanti. Allora, Marco Mele, così appunto il direttore di comunicazione del gruppo Mediaset Paolo Calvani, intervistato dalla nostra Livia Zancaner. Ma il motivo per cui Mediaset ha fatto cassa, detto tra noi, è perché appunto c'è un'esigenza strategica di convergenza, e tu la spiegavi bene prima, in cui un singolo operatore non ce la fa più, o perché aveva bisogno di contante per, diciamo, sostenere finanziariamente il gruppo? Entrambe le cose, sostanzialmente. Però io ritengo la cosa importante sia, al di là di quello che ha detto Calvani, che è preciso, è diciamo la fotografia di Mediaset oggi, bisogna avere una visione strategica, cioè dove sta andando il business del, diciamo, chiamiamolo pay TV, in realtà dell'acquisto di contenuti audiovisivi su qualsiasi piattaforma. Si può ancora avere degli operatori solo nazionali, esclusivamente nazionali, nel mercato televisivo? È interessante il passaggio che Mediaset scorpora Premium, cioè ne fa un'altra società. Questa società è chiaramente nazionale. Mediaset con la TV commerciale resta invece nazionale. Certo, questo è un business più difficile da aprire a parte internazionale rispetto alla Pay. È finita, e questa è un'altra domanda importante, è finita l'epoca degli scambi tra Mediaset e Sky. Sì, cioè Mediaset dice la Coppa dei Campioni resta in esclusiva per noi dal 2015 al 2018, quindi esclusiva vuol dire che chi ha il decoder satellitare eccetera non le vede, si vede solo col decoder Mediaset Premium. Faccio notare che se Mediaset ha le 8 principali club di Serie A, chi vuole vedere altri incontri delle altre squadre dovrà prendere gli Sky a quelli di Mediaset Premium. Comunque, questo è il quando ci sono delle esclusive, chiaramente ci sono dei problemi per gli utenti, perché devono avere il decoder di chi ha l'esclusiva, di quella piattaforma, di quel soggetto che ha l'esclusiva. Però d'altra parte questo valorizza l'investimento, cioè ce l'ho solo io. Se ce l'ho solo io vuol dire che uno, fissa il prezzo, e due, ne trae gode vantaggi in termini di abbonamenti. Certo. È chiaro che Premium punta a sfruttare abbonati a Sky nei prossimi 4-5 anni, e su questa scommessa può trovare anche altri partner internazionali. Del resto è da mesi che tratta con Al Jazeera, non è che ha cominciato già prima in Telefonica. È vero. La cosa prego. Curiosa è che Telefonica l'intenzione esplicita di sbarrare la strada Al Jazeera sul mercato spagnolo, e per questo dovuto al comparto Digital Plus, e adesso magari potrebbe ritrovarsela come alleata in Premium. È curioso, ma perché è una geopolitica diversa. Telefonica come interesse primari Spagna, America Latina, non Italia. Allora, da che io capisco che non solo si va sempre più in maniera più forte verso la convergenza molte volte annunciata in questi anni tra telecomunicazioni e televisione, cioè tra chi ha la piattaforma e i contenuti, chi ha tutta una rete di telecomunicazioni e anche i clienti, ma soprattutto che il gioco non è più un gioco nazionale, cioè nel momento in cui tu, come ricordavi prima del GR24, la stessa Sky sta pensando di fare una Sky unica europea, non più le Sky nazionali, immagino anche per ammortizzare i costi, e c'è addirittura Telefonica che è interessata a rubare spazio o bloccare l'eventuale ingresso di Al Jazeera in Spagna, capiamo che il gioco non è più un gioco, diciamo, che si può limitare ai confini nazionali. Poi chiaramente l'esigenza nel frattempo di Mediaset di fare cassa, che resta tutta. Grazie Marco Mele, il traffico. Grazie. E poi i salari americani, ma non solo, il tema del salario minimo e di quello che sta capitando con i lavoratori in rivolta di tutti i fast food americani, ne parliamo anche perché la settimana scorsa la Germania invece ha votato 8,5 euro, se non ricordo, allora come salario minimo. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sotto 19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, lunga protesta dei lavoratori di McDonald's e anche a questo punto pressing della Casa Bianca per generalizzare l'aumento del salario minimo negli Stati Uniti a $10 anche nei grandi gruppi privati americani. Tra l'altro, alla luce anche di uno studio pubblicato dall'Economy Policy Institute, secondo cui i lavoratori a salario minimo dei fast food americani più rinomati scusatemi, nel 2013 hanno guadagnato in media $15,000 a testa contro $11 milioni che si sono portati a casa gli amministratori delegati di quelle catene di ristoranti. Praticamente il rapporto tra il numero uno delle grandi catene di i top manager delle grandi catene di fast food e il loro dipendente è di 721 volte. Pensate che nel 2007 era solo di 609 volte, adesso siamo a 729. Negli anni 70 il rapporto tra i top manager delle prime 100 corporate americane, le prime 100 aziende americane, era rispetto al dipendente più basso era di 240 volte. Quindi il divide salariale, la sperequazione salariale sta aumentando negli Stati Uniti, e ci sono anche altri gap di genere. Una donna è pagata negli Stati Uniti 77 centesimi contro un dollaro guadagnato per lo stesso ruolo dall'uomo. E ancora, la forbice varia a seconda dei paesi, anche in Europa in media nell'area euro guadagnano il 16% in meno le donne rispetto agli uomini. A meno di una settimana da quando il Bundestag ha approvato in Germania il salario minimo a 8,50 euro, e tra l'altro riguarderà soprattutto i lavoratori che risiedono nei Länder, nelle regioni orientali dell'ex Germania dell'Est. Tra l'altro il salario minimo esiste già per legge in 21 stati dei 28, il più basso è in Bulgaria, 1,04 euro di salario minimo, il più alto è in Lussemburgo, 11 euro, in Francia 9,50 euro, in Olanda 9 euro, in Belgio 9 euro, in Irlanda 8,60 euro, in Gran Bretagna 7,40 euro, Spagna è basso 3,91 euro, Grecia 3,35 euro, Portogallo 2,92 euro, Polonia 2,32 euro, l'Italia non ce l'ha, non ha una paga minima imposta per legge sotto la quale non puoi andare. Mario Platero, corrispondente su 24 ore degli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, eccoci. Allora, che possibilità di successo ha la Casa Bianca in questo pressing che noi diciamo sui lavoratori di McDonald's, ma riguarda tutte le grandi catene di fast food in America? Ma io credo che Barack Obama ce la farà, se non subito, è uno strumento elettorale, ricordiamolo, a novembre ci sono delle elezioni, se non subito, vale a dire entro la fine dell'anno, probabilmente subito dopo, negli ultimi due anni del suo mandato. Quindi le probabilità, secondo me, sono buone, anche perché stiamo parlando comunque di un livello salariale che rispetto al salario medio orario è comunque molto più basso. Abbiamo avuto dei dati sui salari medi americani, e parliamo di $24 all'ora, $24,60, E devo dire un dato molto interessante, implicito nell'ultimo dato che abbiamo avuto sulla disoccupazione giovedì scorso, è che quest'anno il 58% dei nuovi occupati ha avuto un salario superiore al salario medio, contro il 48% dell'anno scorso. Dunque i nuovi occupati stanno cominciando a ricevere già un salario medio superiore a quello dell'anno scorso, o meglio nella media, diciamo, del gruppo dei nuovi occupati, e parliamo di un salario di $24 all'ora, molto superiore al salario minimo attuale, che è di $6 e che vuole essere portato a $10 all'ora. Allora, è con noi anche Mario Vavassori, che già nostro ospite alcune volte. Mi sono legato di ODM Consulting, ogni tre mesi presento un rapporto sulle retribuzioni. Vavassori, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Mi dica una cosa, questa è una polemica che va avanti, ed è uno scontro che va avanti in America da mesi. Da noi in realtà sembra quasi il tema scomparire. Sì, c'è il salario minimo in Germania, ma la divaricazione tra top manager e dipendente è un elemento soprattutto americano? Divaricazione, voglio dire, che in questi anni è andata via via aumentando. Allora, due cose. Una precisazione: io non sono più l'amministratore delegato di ODM, sono di job pricing. È vero. No, mi viene da dire dalle vostre conversazioni che ognuno ha il suo problema di precarietà e lo risolve come meglio riesce. Noi la chiamiamo precarietà, in realtà è una forma di flessibilità. Noi abbiamo avuto in questi ultimi anni uno stop generalizzato sugli stipendi un po' in tutto il mondo, ora c'è una ripresa e quindi anche gli stipendi si fanno, i titolari degli stipendi insomma in qualche modo si fanno avanti. E negli Stati Uniti quello che voi affermavate è assolutamente vero, loro hanno una disparità che è 20-30 volte superiore alla nostra. Io le faccio un esempio proprio molto molto chiaro e molto semplice. Sergio Marchione, che pure oggi è più americano che non italiano, ha un multiplo cosiddetto di 250 volte rispetto ad un operaio e di 50 volte rispetto a un dirigente in Italia. Negli Stati Uniti ha un multiplo molto più alto, perché generalmente le retribuzioni o il numero di retribuzioni basse sia negli Stati Uniti ma anche in molti paesi industriali è molto più elevato che non da noi. Noi c'è stata una forma di protezione nel corso degli anni che ha comunque garantito un aggancio all'andamento dell'inflazione. Ecco, questo è un po' il risultato. Per cui lei dice in realtà... nonostante la lotta per il salario minimo in America, se posso tradurre, nasce anche dal fatto che il divario tra top manager e lavoratore con salario più basso è più alto che da noi. È molto molto più alto. Guardi, le do due numeri molto, molto semplici. A noi si arriva a 200 volte, ma in pochi, in alcuni casi. Che vuol dire però che un operaio o un impiegato deve vivere, deve lavorare 200 anni per prendere quanto prende, è già tanto, uno di questi, certo. 200 anni per prendere lo stipendio di uno di questi, insomma. Quindi è un'iniquità incredibile, un'ingiustizia anche incredibile. Sì, però rispetto ai 700 anni che ci vogliono per un dipendente base in America per arrivare allo stipendio di un anno del suo capo supremo, del suo top manager. Noi diciamo che da noi strada, nell'area euro comunque il rapporto 1-200 ricorda molto di più il rapporto che c'era negli anni 70 che quello che poi c'era nel 2007 prima dello scoppio della crisi, sì, dove si arrivava a cose stellari, perché questi rapporti sono una media. Se fossimo andati a guardare il rapporto nel mondo della finanza, probabilmente tra bonus, stock options, salario, saremmo arrivati di mille volte. Sì, arrivava anche a mille volte. Ora io dubito che ci possa essere un essere umano che vale mille dei suoi dipendenti. Lo dico con massimo rispetto per i top manager, per il ruolo delle responsabilità, per tutto quello che avete, ma mille volte i dipendenti non si può sentire. Da questo punto di vista, quindi, il tema resta un tema molto americano. Perché però, mi dica in una battuta, in un minuto a meno, Vavassori, il tema del salario minimo è un tema anche europeo. La Germania l'ha appena votato l'anno scorso, e la settimana scorsa. E perché? perché si scambia il valore di un lavoro con il prezzo di un lavoro, cioè sono due cose diverse. Il valore del lavoro è importante, per tutti è importante, e chiaramente qualsiasi società cerca di valorizzarlo e di usarlo come arma per gestire il consenso. Però il prezzo è un'altra cosa, il prezzo lo fa un po' di più il mercato, e quindi è inutile inserire continuamente regole quando invece c'è un problema di cultura, c'è un problema di comportamento e di cultura. Se noi vogliamo sviluppare una cultura del merito, non dobbiamo introdurre regole, dobbiamo introdurre il merito. Sì, devo dire che poi la varietà dei salari minimi in Europa ti fa capire che questo è un continente ancora più che un'unione, perché si va appunto da un euro di minimo in Bulgaria a 11 euro in Lussemburgo, passando per i 2,90 euro del Portogallo e 2,30 euro della Polonia, per cui ecco, cioè, più che un continente, sembriamo un continente geografico più che un'unione di carattere anche economico. Grazie anche al professor Vassori, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.